Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh là là, ragazzi, buonasera. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? La zanzara è il più grande bar d'Italia, Italia, Italia, Italia, Italia. Buonasera, allora, siete due facce di merda, ovviamente. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you, one way. Lucia, attenta a quello che dici. Sono tempi duri, Pronto? Gli scherzi dei bambini che fanno, già, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone, cioè, le cose. Certo, caro Parenzo, che il mondo è pieno di pazzi, il mondo è pieno di pazzi, malati, furibondi. C'è per esempio un signore che adesso non voglio dire, non voglio sempre tornare sul tema degli animalisti, un signore australiano che è in America, addirittura un professore, che si chiama Peter Singer. Questo signore è un teorico della liberazione animale, cioè quello che dice che gli uomini e le bestie, gli uomini e gli animali sono uguali, quello che ha inventato il termine specismo per dire che non bisogna fare differenze tra le specie, eccetera eccetera. Uno di quelli che sarebbe un idolo di molti animalisti italiani. Lo sai che cosa sostiene questo signore? No. Sostiene che bisogna sopprimere i bimbi disabili, cioè quelli che hanno handicap gravi, sopprimerli prima che nascano, prima che vengano fuori, perché in questo modo si possono anche ridurre i costi della sanità. Sarà un caso che è un animalista estremista? Sarà un caso che sostiene la parità assoluta tra uomo e animale? Bah. Nel fine settimana sono venuti a galla alcuni di quelli che vengono soprannominati da taluni giornali, caro David, i papponi di Stato, delle pensioni. Beh, però, caro amico, per esempio, che dire dei coniugi Occhetto, che sono stati soprannominati da alcuni giornali i papponi di Stato. Mi sembra una stupidaggine eclatante. Cosa vuol dire? Che hanno versato un tot di soldi e incassano, fino adesso hanno incassato come pensione, come vitalizio, un sacco di soldi in più, in particolare con il giochetto circa 700.000 euro in tutto fino adesso. Naturalmente auguriamo lunghissima vita ai coniugi Occhetto, e però è un fatto che hanno versato del denaro e incassano molto di più di quanto hanno versato. Cioè, erano i sistemi del vecchio sistema delle pensioni privilegiati, vecchi sistemi, papponi, insomma, questi papponi. Hanno lavorato tutta una vita per fare la politica, hanno nel versato, caso di specie, sia il signor Occhetto che è stato segretario del PDS, hanno versato dei contributi in maniera decisamente inferiore Alberici a molti italiani, ma e sì, incassano come tutti un sacco quelli di soldi della prima, come tutti quelli che hanno fatto dov'è la cosa nuova? Cioè, in genere un'inchiesta giornalistica, c'è qualcosa di nuovo. Vabbè, no? Adesso fai il coso, fai quello che decide che cosa è un'inchiesta e cosa non è. No, ma ti chiedo, ma me lo chiedo a te, a tutti quelli che ci ascoltano, cioè, cosa c'è di nuovo qua? Di nuovo che finalmente viene a galla il fatto che alcuni hanno versato finalmente poco. Adesso si sapeva da sempre, perché il vecchio poco sistema era questo dei politici, dei parlamentari e senatori nella prima repubblica. Intanto Renzi dice che completerà entro il 2016 il ponte sullo stretto. Sì, anche la Salerno-Reggio Calabria. Ho una specie di ponte sullo stretto, il tuo libro, d'accordo? Salerno-Reggio Calabria. Appunto, l'abbiamo visto tutti. Ma sì. Prima una curiosità. La Salerno-Reggio Calabria finalmente la finiamo. Ma guardi, guardi, no, guardi, io guardi, la registro, guarda. Qui. No, ci siamo davvero, anche perché io lo dico scherzando, ma non c'è niente da ridere. Entro il 2015 tutti i cantieri ancora aperti avranno l'accelerazione definitiva, io credo che al massimo il prossimo anno i lavori della Salerno-Reggio Calabria, cioè la novella dello stento più incredibile della storia italiana, sarà conclusa. Allora, faccio notare che Renzi dovrebbe essere molto molto cauto quando parla di queste cose, perché c'è una lunga sfilza di personaggi, di politici che hanno fatto annunci sulla Salerno-Reggio Calabria e poi sono stati smentiti dai fatti. Per esempio Berlusconi, facciamo notare solo Berlusconi nel 2010, Saranno investite nel Mezzogiorno le risorse per circa 21 miliardi di euro, raggiungendo nel 2013 alcuni risultati importanti. Ne cito qualcuno: il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La cosa incredibile di Renzi è che invece di andare in Consiglio dei Ministri e annunciare poi in una conferenza stampa il provvedimento sulle pensioni, che poi è uno tantum di 500 euro a partire dal 1 agosto solo per alcuni colpiti dalla legge Fornero e successivamente salvati tra virgolette dalla Corte Costituzionale, va in televisione ad annunciarlo. Cioè, ma non ti pare incredibile una cosa del genere? A me pare veramente incredibile. Ma cioè, non è incredibile. No, hai ragione. Va a Rai 1 da Giletti, come su da Giletti che ha fatto un colpo giornalistico, non c'è dubbio, no? Cioè, ad annunciare una roba che è una sorta di, no, do 500 euro uno tanto ma un tot di italiani, mettiamola così. Sì. Ma è una roba che uno deve fare con un provvedimento, subito vado in Consiglio dei Ministri, faccio un provvedimento, hai deciso questo, criticabile o meno, si può fare meglio, si può fare peggio, ma non è che vai in televisione dall'ottimo Giletti su Rai 1 ad annunciarlo, è una cosa pazzesca. Ma manco Berlusconi le faceva queste cose. Berlusconi, quando doveva annunciare qualcosa, lo faceva, ma scherzava, rideva, diceva cazzate, eccetera, eccetera. Ma non ha mai annunciato un provvedimento in questo modo. Ma non voglio salvare Berlusconi, che per carità non me ne frega assolutamente nulla, però è così. 4 milioni di italiani avranno il 1 agosto in tasca più o meno 500 euro a testa, perché sono 2 miliardi per 4 milioni. Chi tagliate fuori? Allora, reduce da scontri di piazza pazzeschi, Matteo Salvini è con noi, leader della Lega Nord. Buonasera, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, buon lunedì e un abbraccio agli alpini. Che succede dall'Aquila? Gli alpini dall'Aquila? Che hanno fatto gli alpini dall'Aquila? Perché gli alpini vanno in 300.000 e non lasciano una cartaccia per terra. Ci sono scemi che invece sono in 300 e ne combinano di tutti i colori nelle piazze. Quindi prendessero un po' di lezioni di buona educazione e di rispetto del prossimo degli alpini, i ragazzi dei centri sociali avrebbero solo da guadagnare. Però scusami Matteo, tu oggi hai detto una cosa, hai detto: io so nomi e cognomi di quelli che mi hanno aggredito, che hanno lanciato le uova e altre cose. Identificati. Ma chi sono questi qua? Chi sono? Hanno i nomi le forze dell'ordine, io procederò a denunciarli. Alcuni sono già stati a Massa, ad esempio, procedendo direttamente le forze dell'ordine a denunciare coloro che hanno aggredito i poliziotti. Poi, siccome c'è uno che mi ha sputato in testa, uno che mi ha lanciato un sasso, uno che ha lanciato una bomba carta, e quelli, alcuni sono in fase di identificazione, mi dicono che non sono dei disagiati che vengono dalle periferie a protestare contro le loro condizioni di lavoro, ma sono i classici figli di papà che evidentemente hanno un papà e una mamma che non li hanno educati sufficientemente bene al rispetto del prossimo. Senti, tutta campagna elettorale per te è questa, pubblicità gratuita, diciamo, questa roba qui, questo carrozzone di contestatori che ti insegue dappertutto. Ma fa un favore? No, perché non mi interessa prendere il voto schivando il sasso, perché poi magari quel sasso non prende me, ma prende una mamma col bimbo nel passeggino, come ha rischiato di accadere a Viareggio o a Massa. Io chiedo il voto perché ritengo che la sanità toscana o la sanità ligure possano essere migliore, e perché ritengo che Renzi sia irritante. Oggi parlava, non so se avete sentito, di simpatico bonus. Cioè, a fronte di un furto di 18 miliardi di euro certificato dalla Corte Costituzionale, lui spaccia per simpatico bonus e regalia preelettorale il fatto che ad agosto i soldi per tutti non i soldi per tutti non ci sono, questo è evidente. Innanzitutto dillo, guardate, ci hanno riconosciuto che vi abbiamo fregato 18 miliardi, non ce li ho tutti e subito, comincio a restituire. Più o meno è quello che ha detto. Scuse. Ma lui pensa, lui vende come un simpatico, un regalino di Babbo Renzi il fatto che restituisca 2 miliardi su 18, a parte il fatto che i soldi si potrebbero trovare, e io sto continuando a dire a gente. Cioè, secondo te ci sono, si possono restituire subito questi soldi? 800 miliardi di spesa pubblica, non ne recuperi 18. Vabbè, sì, però non è che si può. No, ma non dico in 15 giorni. Con un decreto di due righe, visto che Renzi decreta anche le previsioni del tempo, tu costringi tutte le regioni italiane a spendere la stessa cifra per fare la stessa cosa negli stessi ospedali. E risparmi secco 18 miliardi, guarda caso la stessa cifra. Oppure firmi il referendum della Lega in tutti gli 8.000 comuni italiani per tassare la prostituzione. Vabbè, quello è un altro discorso. Cosa anche che io e Beppe abbiamo già fatto, porti a casa 2 miliardi. Quello sarebbe cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza. Però la Fornero oggi, c'è cioè la questione della prostituzione. A proposito, Efebal dice che una delle testimonianze di questa campagna sulla legalizzazione della prostituzione che non farà più la prostituta se la candidi, ha intenzione di candidarla? Va bene che la Lega sta crescendo e non pongo limiti e confini a nulla, però non scegliamo le candidature in diretta alla Zanzara, cioè, c'è un percorso che ne so, non sarà più lungo. Vabbè, d'accordo, però lei dite che è disposta. Allora, ringrazio per l'apertura mentale sui temi dell'immigrazione da controllare, della regolamentazione della prostituzione. Una persona squisita, questo sì, però dal fatto di essere una persona squisita a candidarsi non la vuoi candidare, dai, non la vuoi candidare. No, ho detto questo, ho detto che ne parleremo, sarà un percorso lungo, ci mettiamo un quarto d'ora a decidere chi va a fare il parlamentare, insomma ci sono... Vabbè, consiglio comunale a Milano, che ne so, consiglio comunale a Milano. Guarda, meglio di qualche assessore che c'è in giunta adesso con Pisapia, sicuramente Efebal lavorerebbe. Cioè, farebbe meglio di quelli... di qualche assessore di Pisapia. Come è messa a Milano? Vabbè, adesso come messa a Milano? Vabbè, senti, la Fornero... Come è messa a Milano? Mica è Kabul, scusa. No, per fortuna, perché la mia città la adoro, ma la vedo sporca, la vedo ferma. Adesso c'è Expo che porta un pochino di movimento. La prendi la metropolitana alle 11 di sera? Sempre. Io sì. Ragazzi, parla con un autista della TM qualunque. Ciao, ha paura? Che viene aggredito un giorno sì e un giorno sì. Sì, hanno paura gli autisti, figurati i passeggeri. Senti, la Fornero ha detto che sei di una pochezza pazzesca, superficiale e di una faciloneria. Le tue ricette sono di una faciloneria incredibile. E addirittura non si mette. Metterei sul primo barcone la signora Fornero. Sul primo barcone in direzione quale? In direzione qualunque direzione. In un paese civile sarebbe esiliata quei danni che ha fatto. Invece di chiedere scusa e ritirarsi in una vita di studio, continua a pontificare. Salvini mi ha detto è superficiale, mi ha dato dell'imbecille. Magari ha ragione, però tu che hai creato un... Io ieri sera a Genova ho incontrato 5 esodati che hanno, io non so perché chi è nato nel 1952 debba essere condannato a morte. Sono 50.000 in Italia. Cioè, tu dici che la strozzerebbero, gli esodati la strozzerebbero? Non le darebbero due carezze sulla guancia, sicuramente sono persone educate, non violente, a differenza degli lanciatori. No, lei ha detto che non si meraviglia quello che ti succede. Ha detto che non si meraviglia di quello che ti succede in piazza. Non mi meraviglio di quello che succede in piazza, no, Salvini. In un paese normale la signora Fornero non andrebbe a pontificare con i disastri che ha fatto, perché ci sono decine di migliaia di esodati. Cioè, le dovrebbe essere impedito di parlare in televisione, secondo te? No, ognuno è libero di parlare, io non l'ascolterei. E dovrebbe chiedere scusa, io non l'ho ancora sentita chiedere scusa. Chiedi scusa, io sbaglio, chiedo scusa, sbaglio spesso. Fermi tutti, traffico. Torniamo tra un attimo con Matteo Salvini. Buona coda chi è in macchina come me. La Zanzara. Eccoci qui il lunedì 800 24 00 24 con Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Abbiamo parlato già di un po' di cose. La questione della sicurezza. Tienilo Salvini però un po' in onda, perché non lo sentiamo mai né in televisione. Cioè, guarda che i dati dicono che Renzi è più presente. Berlusconi secondo e dopo Salvini. Oggi ci sono dei dati pubblicati su un giornale. Sì. Appunto, per questo ti dico teniamolo. Il fatto che sia presente non c'è dubbio. Evidentemente se è presente perché serve alla discussione. Perché fa audience, eccetera eccetera. E io poi me ne fotto di questa cosa delle presenze in televisione, lo sai che me ne sbatto le palle quando uno dice è sempre presente, chi se ne frega, se uno lo vuole chiamare lo chiama, se uno non lo vuole chiamare non lo chiama. Qual è il problema? Cioè, non capisco il punto. Cioè, si attribuisce a Salvini una responsabilità che è quella di stare in televisione, ma è incredibile questa cosa qua. Cioè, lo chiamano e poi dice no, è sempre in televisione. E vabbè, lo chiamano, fa il suo mestiere, stare in televisione, fare politica. Qua c'ho oggi un fratello Rom. Oggi dimmi, Santoro però ha detto che dimmi, il talk show è morto, anzi non è morto il talk show, e la scelta presenza di Salvini in parte dipende dalla televisione, anzi dipende dalla televisione, cioè Salvini creato dalla televisione. Vabbè, io voglio capire una cosa, Matteo, la questione del cellulare, tu dici che hai oggi in un'intervista, credo al Libero, 3-4 mila persone che hanno il tuo cellulare, ma ricevi anche insulti sul cellulare? Gente che ti chiama... Persone per bene, tendenzialmente. No, ma che ne so, magari il tuo cellulare circola. Io ho lo stesso numero da anni, so, un telefonino sì. vecchio, non c'ho WhatsApp, non c'ho internet, c'ho un Nokia vecchia maniera. Ma capita che è il sindaco, anche non della Lega, che mi chiede una mano con il cellulare, ma l'agricoltore che ho incontrato a Cairo Montenotte nel Savonese ha bisogno di qualcosa, gli do il cellulare, quindi non ci sono messe o rimbambiti, anche perché altrimenti... Ma tuo figlio a scuola ha paura, no? Non succede nulla a Milano, no? No, è una scuola, cioè ancora pubblica, la questione della sicurezza è ristretta ai comizi. Ma già è demenziale che qualcuno se la prenda col babbo, perché può piacere o non piacere. Se uno non interessa quello che dice Salvini, cambia canale, cambia radio, non va al comizio in piazza. Ma figurati quando... No, ma su questa questione dell'assalto a Salvini abbiamo già detto venerdì, è una cosa incredibile. Pazzesco, la gente non ha un cazzo da fare dalla mattina alla sera e va a contestare una persona, ma lo direi di chiunque, lo direi di Renzi, lo direi di Berlusconi, lo direi di qualsiasi altro politico, di qualsiasi parte politica. Lo trovo una cosa assurda, le persone dovrebbero essere prese, secondo me invece che accusate, perché dopo se commettono dei reati va benissimo, ma messe semplicemente in un manicomio, dice vabbè, c'è qualche cura da fare, va bene tutto. Però questa cosa che tu vuoi chiudere i centri sociali, perché dici che andrebbero sgomberati? Gli abusivi, perché se occupano abusivamente palazzi pubblici o privati, il diritto alla proprietà privata. Cioè queste proteste hanno una regia, secondo te, queste proteste ogni volta? Non partono, ma lo annunciano, non è che sia... Cioè lo annunciano su internet, eccetera, eccetera. Su Facebook, ti posso dire, io sarò a Mantova venerdì, sì. Vai su Facebook e già stanno facendo le riunioni per decidere come contestarmi. Vabbè, io sarò insomma a Genova martedì prossimo, non occorre i servizi segreti. Se un ascoltatore va su Facebook e digita mai con Salvini, sì, escono gruppi Matteo Salvini figlio di puttana, Matteo Salvini non farti vedere, Matteo Salvini qua, Matteo Salvini là. Quindi non occorre la polizia scientifica, che un questore qualunque... Ma la polizia che potrebbe fare di più? Cioè che può fare di più un questore, eccetera? Distanza, perché non puoi usare violenza, ripeto... mi arriva un uovo in testa, vabbè, me ne faccio una ragione, chi se ne frega, ma se come a Senigallia, in una piazza piena di gente con delle mamme e con dei bimbi, lanci una bomba carta, non è che fai un gesto rivoluzionario contro Salvini che è razzista, fai un atto di delinquenza. Ma perché le chiami zecche? Tu parli sempre di zecche? Ma perché sono dei parassiti della società, perché potrebbero far volontariato, andare all'Avis, andare in una parrocchia. Ma anche tu frequentavi i centri sociali una volta? No, io sono andato a sentire un concerto una volta a Leoncavallo quando avevo 16 anni e facevo il liceo. Mai frequentato un centro sociale? Ma figurati. Senti una cosa, ma con tutto rispetto per chi non la pensa come me e fa cultura, fa teatro. Però non mi rompete i coglioni quando faccio un comizio, dici, no? Ma appunto, fai la tua cultura, fai il tuo teatro, ritieni che Salvini sia un razzista, libero, io secondo me sbagli, perché ignori. Però sei libero di dirlo, basta che non mi rompi i coglioni quando vado in piazza. Io non è che se fa un comizio, che so, Vendola o la Boldrini, vado lì e gli lancio un petardo. Io ritengo. Senti, tu che sei Boldrini così attaccato alle cose, come dire, da un po' di tempo in realtà, le cose, diciamo, italiane, Berlusconi che vende ai cinesi il tuo Milan, perché non fai di tutto per impedirlo? Cioè, io gli ho detto, a me piacerebbe che ci fosse un imprenditore italiano. Fai una dili, ma esiste imprenditori disposti a comprare il Milan? Ma guarda, che ne so, alla Ferrero, alla Cremonini, alla Caprotti, certo, mi piacerebbe avere una squadra italiana di proprietà italiana. Detto questo, se devo prendere tre pere dal Sassuolo che schiera solo italiani in campo, e se c'è un cinese che c'ha i soldi, ben venga il cinese che c'ha i soldi. Oddio, ti arrendi ai cinesi. Anche un rom magari. un bel rom che compra il Milan, bellissimo. Il rom che ha i soldi, bisogna vedere come li ha guadagnati quei soldi. Un bel rom che compra il Milan, questo vorrei vedere. Un rom che ti compra oggi, il Milan. Oggi Berlusconi, ha detto che è fuori dalla politica lui ormai, sei contento di questo? Ma non do giudizi, ha fatto tanto, mi mettono tristezza quelli che hanno campato di pane Forza Italia e Berlusconi per 20 anni e adesso lo abbandonano nel momento della difficoltà. Cioè Fitto, però, Fitto, no? Fitto ti mette tristezza. No, non lui, no, Fitto quantomeno ha un'idea alternativa. Penso a tutti quelli che hanno fatto i ministri, i senatori, i deputati, e adesso fanno no però insomma qui e là e su e giù. Comunque ormai è il passato da questo punto, quando dice sono fuori dalla politica è il passato. Ma lui è ancora leader di Forza Italia. Il primo giugno io penso che la Lega sarà il primo movimento politico alternativo a Renzi e quindi cambieranno un po' di cose. Va bene, ciao, a presto, ciao. Giornale Radio, ciao. Brucida. La Zanzara. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Complimenti per il programma. Vi seguo sempre, dalla mattina alla sera. Intanto è tornato Berlusconi, eh? È tornato Berlusconi con la rottura definitiva con Fitto, con Raffaele Fitto, l'ex governatore della Puglia. Sentiamo Berlusconi. Abbiamo constatato che qualcuno voleva andare oltre e invece per me è andato definitivamente fuori. Che c'è da esultare? Perché esultano? Beh, i suoi, dico, evviva, finalmente era ora che... Senti poi del traditore, ancora con la categoria del traditore Fitto, Berlusconi. A Lecce, in Puglia, in Italia, chi vota contro il partito che l'ha eletto, chi vota contro il candidato del proprio partito, viene chiamato traditore! A Cesano Boscone imboccava i vecchi come i bambini. Ho svolto tante funzioni, una delle funzioni era dare da mangiare ai pazienti colpiti da apraxia. Allora mi hanno insegnato di prendere dalla carrozzella, in questo caso una signora, di metterla al tavolo, di mettergli il tovagliolo intorno al collo e poi di ricorrere a quella tecnica che tutti noi padri e madri conosciamo, che è quella di mandare a mangiare ai nostri bambini quando non ne hanno voglia il cucchiaio dentro il purè e cominciare a dire: è in arrivo un cucchiaio carico di un buonissimo purè. Pettino e bacio gli anziani. Io tolgo il tovagliolo, asciugo i lati della bocca, asciugo un po' la fronte, estraggo il pettine, pettino la signora, gli do un bacio sulle due guance, la prendo, la metto sulla carrozzina. E poi c'è anche l'aneddoto del vecchio comunista juventino che si è convertito. Si stacca dall'angolo della sala un signore grosso, corpulento, 40-45 anni, viene verso di me e mi dice: Presidente, onorato di conoscerla, io ho sempre votato comunista e sono anche juventino, però avendola vista qui, avendo visto l'umiltà, l'amore, la pazienza con cui lei fa questa cosa, le devo dire che uno... Se qualcuno mi parla male di Berlusconi, da qui in avanti gli spacco la faccia. Non voto più comunista, da qui in avanti voto per Forza Italia. 3. Però col suo permesso resto juventino. Ragazzi, ancora quando fa queste cose le voci ha un senso, le voci. Un senso quando fa queste cose. Poi questa mattina mi ha chiamato il mio amico che era a Saronno sul balcone di un appartamento, mi ha detto: sta per venire Berlusconi, e poi ha visto tutto il comizio di Berlusconi a Saronno sopra, proprio a 3 metri. Mi ha mandato un filmato con Berlusconi sotto, praticamente poteva lanciare qualsiasi cosa. Mi ha detto che era di una tristezza pazzesca. Ha parlato di un'ora del Milan, di quando ha comprato il Milan, di come si è fatto imprenditore, di comunisti. C'erano 20, c'erano molti fotografi, perché faceva caldo, moltissimi anziani. E poi si è chiesto: ma chi glielo fa fare ancora di andare a Saronno? No, Saronno, a fare un comizio alle 2 di pomeriggio sotto un sole pazzesco, a mezzogiorno, all'una, non mi ricordo quand'era, con tutti i soldi che ha. Ma perché non è chiuso, è finito, uno finisce un capitolo, ma vai alle Bahamas, dove cavolo c'hai miliardi di case, devi andare sotto il sole cocente. Eppure mi ha detto: evidentemente sai, quando uno invecchia poi ma la passione per la politica, anche dai, c'è la passione, vada, l'adrenalina delle cose, la piazza. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Via libera al decreto pensione, ad agosto bonus per 3.700.000 cittadini. Renzi, chi oggi ci critica, votò quella norma, il Fondo Monetario bene le riforme. Sulle pensioni le opposizioni all'attacco, Berlusconi restituire tutta la cifra perduta, Grillo da Renzi voto di scambio, Salvini ricorso a Corte di Strasburgo. Alla Camera dei Deputati il voto sulla riforma della scuola, via libera all'autonomia, la CGIL senza risposte, pronti a sciopero degli scrutini. A Bruxelles via libera la missione navale contro gli scafisti, il comando affidato all'Italia, si allarga il fronte dei paesi. Donato da Varese, vai Donato, vai. Pronto? Vai Donato. Pronto, io non ho grandi cose importanti, vorrei sapere, visto che questa è Radio 24, vero? Sì, Radio 24, sì. Qui ha chiamato. Vedi Giuseppe, io vorrei sapere, sì, non so che sono cose rilevanti. Io vorrei scardinare Fabio Fazio. Fabio Fazio. Filippi, sì. Voglio scardinare la sigla di Marzullo. Sì, ma in che senso scardinare, scusami? Tirarlo via, trarvi indegno di stare in quella televisione. Ma voglio chi? Fabio Fazio, l'immobiliarista Fabio Fazio. Ma che c'entra l'immobiliarista Fabio Fazio, scusami? No, però aspetta, Donato, prima di chiamare gli addetti alla sicurezza, gli infermieri, gli agenti sanitari. Sì, certo. Scusa, ma io... queste cose penso che siano lecite saperle. Ma che io cosa? Cosa è lecita? Il caldo. Vorrei sapere, visto che voi siete lì un'autorità mediatica che arriva dove nemmeno qualche volta un santo può arrivare. No, però Donato, io direi calmi tutti. No, Parenzo, calmi. Allora, Donato chiamando da Varese. Sì. Allora, la domanda è, ma che stracazzo vuoi, Donato? Cioè, perché Fabio Fazio... Voglio dire una cosa su Fabio Fazio. Perché non una posso cosa attaccare su Fabio Fazio. Fabio Fazio è un farisaico, lo voglio dire a porre da guardare. Fabio Fazio, a me deve spiegare per quale cazzo ti motivo sta lì da anni e mi deve mostrare chi, perché non esista nessuno che può prendere il suo posto. Perché ma chi se ne frega, scusa, a me frega. Io vorrei sapere come Michele Guardista in Rai 3 da 25 anni ha fatto la missione. Ma sei un pazzo tu, Donato da Varese. Ma non fate le stoffate, lo sapete che anche voi vi rode questa situazione. No, non ce ne frega nulla, meno di niente. Ci sono quegli uomini che vanno a letto con Vladimir Lussura. Non so, ma con quel cazzo di coraggio si può andare a letto con Vladimir Lussura. Aspetta, fermo lì, non ho capito. Che c'entra adesso Vladimir Lussura? Dai. Ma no, ma sono tutte domande che io adesso mi facevo qui con un amico, che adesso è andato via. Ma domande che uno si fa in una corsia di ospedale per malati di mente. Ma non dire cazzate, ma non è vero. Ma che c'entra vero. Vladimir Lussura adesso? Spiegami. Niente, vorrei sapere per quale motivo Prodi non sia ancora stato ammazzato. Per quale motivo Prodi ancora non è stato ammazzato? Che vuol dire? Ma come? Vi rendete conto i trascorsi di Prodi, quali trattati ha firmato quel criminale o no? Tu ti rendi conto di quanto sei malato in testa oppure no? Ma cos'è che Donato, vuoi sapere? Allora io vorrei sapere perché saltando, non ti hanno dato alle 19:26 la pillola delle 17 che è quella che ti controlla l'umore. Io non capisco perché non ti hanno dato quella pillola lì. Questo vorrei sapere io. L'unica cosa che vorrei sapere. Io vorrei sapere anche come fa Maurizio Costanzo del Ripa per i rapporti. Vorrei saperlo. Maurizio Costanzo, Io vorrei sapere la De Filippi, la lesbica della donna. Qui è il degrado del cesare. Allora, momento in cui abbiamo stabilito che essere omosessuale è una cosa normale, perché devo sentirmi in colpa perché dico la De Filippi una lesbica? Scusami, abbi pazienza, ma non è che uno adesso può venire qui parlare senza controllo sanitario e dire questo è così, Prodi deve essere ammazzato. Senti che si carica adesso. L'Italia deve essere, allora agli italiani, non bisogna mettere gli italiani che si prendono per il culo. Io voglio sapere, Maurizio Costanzo e la De Filippi quali modalità adoperano per avere dei rapporti sessuali? No, sei un malato, Donato, di niente. Ma perché non ti fai curare? Guarda, lo sto dicendo seriamente, Donato, perché non ti fai curare? Vorrei sapere, guarda, io ogni tanto vedo qui mi incazzo, adesso voglio un po' ridere, mi incazzo moltissimo perché se tratto l'argomento invasione islamica, non male che dovrei ammazzare invasione islamica. Dovresti ammazzare chi? Allora, io di solito tratto degli argomenti molto, molto, molto duri e molto, molto, molto pericolosi. Tratto degli argomenti dove li tratti? Con chi li tratti? Io voglio sapere con gli infermieri. Chi è quel... Cosa? Ma con chi li tratti? Con gli infermieri tratti gli argomenti così. Io voglio sapere la De Filippi, curiosità. Oddio, ma chi se ne frega? Siamo alla follia. Ah, chi se ne frega? Benissimo. Chi allora, se ne frega? Allora, passiamo ad un altro argomento, l'invasione islamica. Dimmi che cosa hai che cosa hai da dire sull'invasione? Che cosa hai elaborato con, non so con chi, poi con gli infermieri o con altre persone? No, io voglio questo è un progetto del califfato che che l'Europa si deve islamizzare. Io voglio sapere a quel maiale che hai a fianco, quel piccolo maiale, che sì. È un maiale, quel Parenzo, maiale. Sì, capito. Sì. Voglio sapere, io adesso non sono più giovane, no, ho superato i miei 40 anni. Ma non è quello il problema tuo, se il governo dovesse precettare tutti i soldati per andare a difendersi contro l'Islam, voglio chiedere chi può quel maiale lì, no? Sì. Se io devo andare a difendere quest'Italia, Sì. Dì al maiale se devo difendere quest'Italia. Aspetta, Donato, aspetta a questo punto che direi intanto... che alle 19:28 in questo momento mi sembra sia giunta l'ora. Ecco. Mi sembra che il pillolone sia in grande ritardo. Dunque non ci vuole più il pillolone. No. Ci vogliono due punturine, ma esatto. Punturine di quelle abbastanza serie. E un giorno serie. Direi uno o due di degenza anche nella struttura. Ma un giorno, due giorni. Direi anche una settimana, Donato, perché io questa sera praticamente sei passato da Fabio Fazio fino adesso a che tutto. Io voglio allora Fabio Fazio lo voglio completamente defenestrare da quella situazione. Sì, ma arrivano quella arrivano. Arrivano, non ti preoccupare, arrivano. E adesso la borsa. La Zanzara. Chi sono quegli uomini che vanno a letto con Vladimir Cussura? Non so, ma con quel cazzo di coraggio si può andare a letto con Vladimir Cussura? Io vorrei sapere anche come fa Maurizio Costanzo di ripapere i rapporti, vorrei saperlo. Adesso vi faccio ascoltare la voce di un consigliere regionale, ex consigliere regionale, solamente per 4 mesi nel Lazio, poi uno dice che non si incazza, no? Un tale che si chiama Sabatino Leonetti, intercettato dall'ottimo Giletti all'Arena. Allora, questo signore è stato per 4 mesi con pochissime presenze, tra l'altro, è subentrato a un tizio dell'Italia dei Valori, dal Consiglio regionale del Lazio, che si era dimesso per la questione dei rimborsi. Maruccio, non so se te lo ricordi. Come? È subentrato un tizio che si chiama Leonetti, uno che non conosce nessuno, però queste storie, anche se sono disconosciuti, bisogna farle conoscere lo stesso. Bisogna che arrivino al grande pubblico, saranno disconosciuti, ma sconosciuti che si ciucciano un sacco di soldi. Cioè non sono nomi importanti, non sono nomi conosciuti, non sono nomi dei grandi papponi delle pensioni, ovviamente. Ma si tratta di nomi comunque significativi, perché succhia da una parte, succhia dall'altra, alla fine restiamo in mutande, se non siamo già in mutande. Questo signore che si chiama Leonetti, Sabatino Leonetti, e per 4 mesi, vi ripeto, 4 mesi alla Regione Lazio, 4 mesi e poche presenze, prende un vitalizio di 3.100 rotti, che è stato decurtato del 10%, dunque 2006 eccetera eccetera, per il noto provvedimento della Regione Lazio. È uno di quelli che tra l'altro si è anche opposto, credo abbia fatto ricorso, poi bocciato nei giorni scorsi, della Regione Lazio. Leonetti, avvicinato dalle telecamere dell'Arena di Giletti, risponde in questo modo. Leonetti: io ho già detto tutto. Non ce lo può ripetere. Io non devo ripetere niente. Mi dà un suo bigliettino che lei è di Giletti. Mi dia un bigliettino. No, non ce l'ho. Se non ce l'ha, non ho neanche la borsa. La prossima volta. Guardi, le posso assicurare che siamo nell'Arena di Giletti. Io non ci credo. E comunque, io ho già fatto. Stia bene. Ma e cosa ha risposto? Okay. Ma noi no, all'Arena di Giletti non ha risposto. Avete già detto tutto. No, guardi, tutto, punto. Non abbiamo detto assolutamente nulla. Hanno già detto tutto. Stia no, assolutamente. Stia bene, arrivederci, statevi bene, statevi bene. Ma non ci può dire assolutamente nulla. Già detto, cioè, tutto. Questo fatto, ma lei è uno di quelli che ha fatto ricorso al TAR, almeno questo. Scusi. Si faccia da parte e non rompa più di tanto, perché credo che sia scorrettezza, stando in una piazza pubblica, venire a casa mia. Credo questa che è casa sua, no, proprio no, perché è una piazza pubblica. Questa è una piazza pubblica. Ma c'è una messa. Scusate, abbiate un minimo di rispetto per chi sta qua. Io sto ascoltando la messa. Va bene? Stia bene. Oh, anche l'amico Angelo Pezzana, che conosco da tantissimi anni, ex radicale, omosessuale, uno dei fondatori delle del movimenti omosessuali in Italia. La libreria a Torino, sì, è un personaggio straordinario. Sì, però se becca 3.100 euro di vitalizio per meno di una settimana alla Camera. Ma erano le io capisco, a me posso dirti, ragazzi, mi va benissimo tutto, fai bene a ricordarlo. 3.100 euro di vitalizio what's new, per meno di una americani. Settimana. Ma no, ma what's quello, new? Ma che me ne frega a me, quello che viene detto notizia, non è mai vecchio. Si chiama non è... Senti, non stare a contestare quello che fanno gli altri, non rompere i coglioni, non dai. Non contesto quello Pensana, che fanno gli altri. Dai. La trovo una campagna che è stata costruita. Ma non ti preoccupare, certo, va ma va bene tutto. Sentiamo come risponde Pezzana. 3.100 euro per meno di una settimana alla Camera. Dai, su, è uno scandalo o no? È una vergogna o no? Ma sì. Si sa, è uscito allora, mille ripetiamola, volte sta roba. Ripetiamola, mille volte. Ripetiamola. No. Intanto trovo assurdo che lei mi pedini quando io esco di ma casa. No, io stavo aspettando no. Che venisse in libreria. No, non vado ma perché vado in convegno. In un discorso no. Politico, voglio dire, di largo respiro in cui si parla di riduzione, lei sarebbe d'accordo almeno ad un contributo su base volontaria dei vitalizi? Il discorso che lei che mi fa è offensivo. Ma perché? Mi scusi. Lei chieda una riduzione del suo stipendio alla RAI. Cioè si dovrebbe ridurre lo stipendio che prende dalla RAI questa giornalista, che sicuramente non è una, come dire, non è una garantita, e invece Pezzana, 3.100 euro di vitalizio per meno di una settimana alla Camera, da radicale, non risponde. Almeno uno risponde, dice guarda, le leggi sono queste, se uno deve rinunciare rinuncia, no, nemmeno rispondere perché dice pedinato sotto casa. Caro Angelo, ci conosciamo da una vita, rispondi a questa giornalista senza fare l'arrogante, prendi, sei un privilegiato, prendi oltre 3.000 euro di vitalizio, rispondi tranquillamente, si può rispondere senza bisogno di dire a quella riduci lo stipendio, dai, su. Marco da Bologna, dai. Pronto? Marco, sì. Mi dai, sei un coglione, Cruciani, dai. Marco, vai. Cruciani, sei un coglione. Sì, abbiamo capito, vai. Ah, no, ma scusa, ma come fai a dire certe cose? Cioè, ma la cultura. La cioè, cultura. L'Italia è un paese di cultura. Sì. Ah, qui tu sei quello che ha già chiamato una volta. Da Vinci, sì. Michelangelo, Raffaello. Sì. E tu parli di stronzate? Sì. Ma te pensi che gli italiani siano dei coglioni? Questa ha già chiamato ma una volta sto fenomeno, sì. Ma tu sei forte, dio dell'odio? Sei forte, sei. Ma tu sei il dio dell'odio? Sei fortissimo, sei. E tu pensi solo al pelo di figa? Sei molto forte, guarda, sei tu veramente forte. Sei veramente sei fenomenale. Al futuro della no, nazione. No, per quello ci sei tu, guarda, per pensare al futuro no, dell'Italia ci sei tu. Attento, attento, tu produci letame. Ci sei tu. Merda. Ci sei tu. Carichi sul paese. Per pensare. Senza per, responsabilità. Per pensare all'Italia. Quello ci sei tu. Te la porterai fino alla fine dei tuoi giorni. Nella tomba, me la porto. Ed è una cosa molto grave che tu fai. Molto, molto grave. Molto guarda. Grave. Perché il paese ha il bisogno paese. Di risposte. Certo. E tu hai una responsabilità pubblica. Sì. Io mi voglio mettere nei panni di un padre che ha una figlia e sente quello che tu dici. Allora? Io sono schifato. Da che cosa sei io schifato? Io mi meraviglio. Da che cosa sei schifato? Gli enti preposti non intervengano. Ma e quali enti sono gli enti? Però, scusa il francesismo. Ma quali enti? Perché vedi una cosa? Ma quali vedi enti preposti di tu cosa? Tu puoi solo Gazzarra. Gazzarra. Tu offendi tu le persone. Offendi tu non rispetti le persone sì. Quando sì. Intervengono. Sì. Tu devi stare molto chiaro. Pensa che facciamo intervenire anche te. Pensa quanto rispettiamo le persone. Facciamo intervenire anche te. Fuori dalla radio. Ma perché non ti buttano fuori dalla radio? Facciamo intervenire. Ci hanno provato più volte. Perché? Guarda, non ci sono riusciti. Facciamo intervenire perché più. Non ti buttano fuori? Facciamo intervenire. Perché evidentemente sei protetto. Evidentemente hai delle protezioni che noi non conosciamo. Ma io manco ti rispondo perché. Bravo tu, ma è una vergogna che tu continui imperterrito a dire queste stronzate. Ma che quali? Io non oso neanche definire. Hai degli chiami degli ospiti che sono non so che cosa, non voglio usare parole. Sì. E tu, nella situazione che l'Italia è adesso, tu ti comporti in questo modo. Ma quale modo? Tu ti comporti dove la gente muore di fame, dove la gente non arriva a fine mese. Sì, come te, infatti. Dove la gente sta per strada. Come te. Senza i soldi. Come te che e perde tu ti tempo. Ti comporti in questo modo, pensando solo al dio denaro. Al dio denaro, a parte che l'audience della tua trasmissione è in crollo totale. Io totale. Ho guardato gli ascolti. Totale, guarda, infatti a chiudere. Finalmente la gente ha capito che sei un coglione. Sì. Giustamente. E speriamo. Guarda, sono talmente coglione che te lo faccio dire. Me, sono talmente ascolto da 50 sono anni. Talmente da coglione. Nato, sono talmente più. Coglione che te lo faccio anche dire, vedi? Cioè, te lo faccio anche dire. Sì, ma io non ti ascolto più perché sei uno. Ma se sei in onda da 20 minuti. Ma se è 20 minuti che sei in onda. Siccome io voglio bene al mio paese, mentre tu non vuoi bene, perché lo dici tu stesso, io non devo salvare l'Italia, io devo fare il mio mestiere, allora fai qualcos'altro. Tu lo sai, sei un comico, sei un comico eccezionale, dai il tuo posto a qualcuno che lo merita. Ma sei veramente un grande comico. Tu non meriti quello che tu fai, tu produci, sì. tu incassi migliaia di euro, sì. E alla faccia, no, migliaia, perché degli italiani, così poco, alla faccia, scusa, della gente che muore di fame. Ma perché, ma così tu non poco? Te ne vergogni. Ma perché così tu vai, poco? Tu ti guardi allo specchio e dici sono stato bravo, ma perché ho fatto i soldi. Perché così non poco? Si fa così, caro, scusami, mio. Scusami. Tu dovresti dire basta. Marco, dire, perché basta, così poco? Dire, ho fatto, chiedi scusa, chiedi, sì, scusa, sì, ai tuoi ascoltatori. Non l'abbiamo pagato, ve lo giuro, non l'abbiamo pagato. Vi giuro, non l'abbiamo pagato questa volta. Questo tu qua, questo qua non l'abbiamo pagato, ve lo tu assicuro. Non è stato persone. Ingaggiato. Questo comico non è Hai stato capito? Ingaggiato. Perché tu porti una responsabilità e Vai. Te la porterai nella tomba. Sì. Nella tomba la tua responsabilità, perché l'Italia ha bisogno di speranza. Sì. Tu invece porti via la speranza. Scusami, Marco. E io mi meraviglio dei tuoi ascoltatori. Marco. Sono anche peggio di te, perché io non ti ascolto, io cambio canale, Marco, perché mi fai schifo. Marco, scusami, Marco. Te lo dico molto chiaro. No, ma chiarissimo. Tu dovresti usare un ma ti rendi conto nei minori quando parli del sesso? No, in una ma aspetta, maniera aspetta. Marco, tu non rispetti le persone che sono minorenni. Marco, i bambini, Marco, che ti ascoltano. Pronto? Ci sei? Perché non li rispetti? Ci sei o no? Perché non rispetti una bambina quando parli di figa, di cazzo, che ti ascolta? Perché non porti rispetto? Tu non conosci la religione, non conosci il senso civico che vive tra le persone? Non l'abbiamo pagato, vi assicuro che non l'abbiamo pagato. Però pronto? Di tutti. No, non c'è da fare. Inviti delle persone che sono il peggio della società. Allora, Marco, tu so perché tu pronto? Perché tu non inviti un pane bianco, una persona di pane bianco, una persona di persone, non è pane bianco, è pane bianco della loggia. Perché? Perché evidentemente non riusciresti neanche ad ascoltare un'intervista, sì. Quindi te ne devi andare. E dove devi andare? Spero che i tuoi superiori ti caccino fuori. Superiori. E poi ti dirò che ci sono anche degli enti preposti al controllo che sì, devono intervenire. Sì, spero enti, lo è vero, ma anche se enti, tu sei nella radio di Confindustria, te ne devi andare. C'è e lì ti deve andare una persona che ha uno spessore, perché tu hai un ruolo pubblico. Se tu non lo capisci, te lo posso capire io. Benissimo, l'hai fatto capire, Marco. Marco, sì, però fermo un secondo solo, poi ti lascio continuare. Scusa, no, per concludere questa cosa, tu soffri di eiaculazione precoce? Aia, hai capito? Soffri di eiaculazione precoce? Vedi? No, ma ti spiego. Poi tu ti vanti delle fighette che ti leccano il culo, ma ci credo, c'è la Ferrari, grazie al cazzo. Come dammi la Ferrari? Questo non lo lasciamo andare, va, lasciamo. Ma com'è la Ferrari? Hai la Ferrari? Ma quale Ferrari? Non lo sapevo io. Perché il paese ha bisogno di risposte e tu hai una responsabilità pubblica. Michelangelo da Milano, ma vai. Non sapevo sta roba della Ferrari. Ma quale Ferrari? Io che ne so, io l'ho detto una lui. Vecchia Land Rover di 11 anni. Ha detto lui che hai la Ferrari, indagheremo. Ha 10 anni, ma quale Ferrari? Mi fanno detto l'ascoltatore. Mi fanno orrore le Ferrari. L'ha detto l'ascoltatore. Michelangelo, mi fanno orrore i Rolex, ecco. E le Ferrari, figurati un po', orrore. Michelangelo. Allora, dopo Berlusconi, dopo queste due, non so se il mio intervento. Ecco, cerca di riportare un attimo di no. Allora, no, io volevo soltanto dire una cosa. Allora, va bene la trasmissione, i suoi lati, eccetera. Però io voglio dire una cosa a Parenzo, che lo rispetto come giornalista, l'ho anche incontrato, gli ho stretto la mano, tutto quello che vuole. Dove siamo incontrati? Ma chi se ne frega? Viale Monza, Parenzo. Vabbè, eravamo davanti al 49. Comunque, ah, bravo, vabbè, perché io abitavo lì sì anni fa. Esatto. Sì, bon. Vabbè, allora, ho detto questo, mi sta anche simpatico. Ho detto questo, sì. Però quando dice di Occhetto. E di tutte queste persone, beh, politici che no, aspetta un attimo, io no, non dopo è... 30 giusto, secondi è giusto, chiudo, è giusto, è giusto, è giusto. Io chiudo. Però quando dice quelle cose lì, ma cosa ho detto? Capisco, scusami, non ho capito. No, ma stai tranquillo, fai modo, chiudere Michelangelo. In qualche modo Parenzo, lei o tu lo difendi in qualche modo tu difendi questo i privilegi politica. Ma non è vero, ma non difendo nessuno. Parenzo, tu sei un giornalista e dovresti capire il linguaggio. Ma io capisco le cose nuove, ma dovresti, scusami, poi io ti lascio, io non sono come quei pazzi che chiamano e dicono tante cose sulla Zanzara, sì, bene o male. Allora io ti dico che tu hai quell'atteggiamento che è veramente stucchevole ed è, appartiene a quella sinistra, scusami, ma quale sinistra? Cica. Ma non c'entra, no, scusami, non ti voglio bollare, ma la sinistra, ma non c'entra niente, aspetta un attimo, appartiene a quel radical chic che ne abbiamo piene le palle, va bene, ma non c'entra ne nulla in questo caso, né la sinistra né radical chic, va bene, allora scusami, c'entra il fatto volevo, che sono cose cica. Vecchie, stranote, rinote, lo cambiassero nulla. Adesso il problema è la nulla. Pensione di Occhetto e degli altri. Ma non capito, lo decidi tu che cosa è nuovo, cosa è vecchio. Ma no, ma lo, su questo lo sappiamo da anni di questa storia. Ma di chi se ne frega? 10 anni fa con quei privilegi inauditi. Lo ma non ti fa un po' orrore che Toni Negri? Ma sì, l'ho detto mille volte. No, non ti fa orrore perché lo consideri un professore. Ma no, i suoi 1500 Toni Negri ha incassato fino adesso tra quanto versato e quanto. Quanto gli abbiamo altri. Dato? 600.000 euro. Ma lui è una cosa altri. Che mi fa schifo a me. Ma mi va bene, fa orrore. Ma allora, ma non è questo il punto. Ma però, no, ma la gente è giusto che lo sappia. Vecchi punto e basta. Privilegi Valenzo, della Prima Repubblica che la gente sa perfettamente. Ma non sanno mai chi te l'ha detto. Ma lo sanno tutti. Ogni anno c'è l'inchiesta del giornale di Libero. Vai a rivedertelo. Ogni anno. Sulla stessa cosa. Sulla stessa vicenda. Ma allora tu non ti devi allineare. Punto. Fermi tutti. 30 secondi. Ciao Michelangelo. Ciao. Vorrei sapere chi sono quegli uomini che vanno a letto con patini il cussuro. La zanzara. Pasquale, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Allora, chiaro? siamo qui con Maurizio Gasparri. Buonasera, vicepresidente del Senato, Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Ho saputo, caro Gasparri, che anche Fedez, no, che Fedez è querelato pure lei, vuole non so quanto, 100.000 euro. 100.000 euro, capito Parenzo? Cioè Fedez vuole 100.000 euro pure da Gasparri perché lo accusa. Si difenderà. Da Libero, da Facci, da tutti. Da Facci, un sacco di soldi. Ah, leggo qua che praticamente vuole 100.000 euro, siete almeno. Siamo citati anche voi, Siamo citati anche noi, sì. Chiedono soldi. Ma io non c'ho una lira tanto. Alcune battute fatte anche nella vostra, sì, che, perché lo hai definito coniglio, lo hai io definito dico coniglio. Che ha fatto tutto Gasparri, guardi, anche, non viene citato addirittura un rap scherzoso che ho improvvisato, se avessi dagli amici di Un Giorno da Pecora, certo, fare un rap l'avrei preparato meglio, ma hanno fatto, sai, quelli fanno delle domande peggio di voi, dice come risponde in musica Tizio a Caio, e ho inventato, e quello è addirittura stato trasmesso anche da Ballarò, è stato messo nella classifica dei mostri di Striscia la Notizia, attendo l'arresto del Gabibbo perché ha concorso esterno che ha diffuso concorso interno in Gasparrate, concorso interno di mossi, insomma roba così che si scherza ogni tanto, no, però ho letto la quello che ha scritto Fedez attraverso il suo avvocato. No, l'avvocato ha scritto. L'avvocato, beh, è come se parlasse Fedez, insomma, è la stessa cosa. E in sostanza, qual è l'accusa di Fedez? Il grande scontro Fedez-Gasparri. Accusa Gasparri di averlo definito un coso dipinto, un coniglio, un aizzatore di violenza. Credo che sostanzialmente la cosa sia questa, un aizzatore di violenza, sì. O no? No, c'erano state quelle dichiarazioni prima delle manifestazioni di Milano di appoggio ai No Expo, poi c'erano degli epitafi della manifestazione che erano un'altra cosa, però le cose sono. Beh, ma tu ti penti di averlo definito aizzatore di violenza o no? Ma guarda, adesso io ho fatto un'altra cosa. Che hai fatto? Io dopo che ho avuto questa missiva, prima ho chiamato l'avvocato di Fedez per sorridere su questa vicenda, insomma, no? Ma lui ha riso, l'avvocato si è messo a ridere. Ma l'avvocato fa l'avvocato, quindi deve difendere il suo assistito. Dopodiché ho preso il computer e ho digitato Fedez Gasparri e ho trovato una cosa che non avevo visto sinceramente perché non me l'ero perso, un video diffuso da Repubblica TV che non chiamerò in casa, almeno per ora poi valuterò, insomma. No, vabbè, adesso non è che vogliamo querelare Repubblica, no, un video di cui Fedez mi definisce un maiale. Ah, ecco, ce l'abbiamo, fermi tutti, perché abbiamo nell'archivio di Fedez abbiamo trovato pure questo, Ce l'abbiamo, Fedez. Aspetta, te lo faccio sentire. Ma io spero che la politica si inizi a occupare del paese e non di Fedez, che i problemi sono altri. Ma Gasparri hai qualcosa da dire? Quello che ho detto prima, che a me non piace fare la lotta con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché i maiali piace. Il riferimento a Gasparri mi pare evidente, cioè lui dice sostanzialmente che la domanda, certo, è questa, a Gasparri cosa hai da dire? La risponde. Cioè ti ha definito un maiale, dunque? Il mio avvocato del Foro di Roma ha oggi inoltrato ai rappresentanti di Fedez, anche Fedez verrà inoltrato, un atto, sì, una richiesta in cui noi abbiamo chiesto 500.000 euro. Oh, la notizia è questa. Allora Gasparri chiede a Fedez, perché se delle battute, sì, scherzose, ma perché cosa, scusa, 100.000, aspetta, beh, maiale, scusi, se un coniglio sta a 100.000, un maiale lo vorrò mettere a 500.000. Scusi, voglio dire, ma che fa una fattoria, che fa? Una bella fattoria è questa, che fa distinzione tra gli animali, distinzione tra gli animali. Ho anche qui vediamo, il mio avvocato adesso aspetta la risposta, a 5 giorni di tempo per legge, se no andremo al tribunale civile, tribunale penale, tutto chiedi quanto. 500.000 in risposta, sì, a quello che ha detto Fedez all'iniziativa. Beh, io non lo sapevo di questo, ho fatto quello che farebbe chiunque, basta digitare, quindi ho appreso il giorno stesso di essere stato definito maiale, di essere stato definito, avendolo appreso, e quindi a questo punto, ma la cosa adesso l'ha fatta sentire lei, e quindi è abbastanza evidente. Quindi il mio avvocato oggi ha mandato una lettera in cui, seguendo le prassi, cioè, ha già chiesto risarcimento di 500.000 euro, dando 5 giorni di tempo per rispondere a questa nostra istanza. Poi andremo al tribunale, faremo quello che sarà necessario, poi eventualmente avremo anche della beneficenza, insomma, perché non è che vi potete mettere d'accordo, cioè 100.000 chiede lui, 500 tu, diciamo, da 400, può darsi, possiamo, questo lo faranno gli avvocati, oramai sta in mano all'avvocato la questione. Vabbè, però adesso Maurizio, tu addirittura portare Fedez in tribunale e chiedergli 500.000 perché ti ha definito maiale, dai, ma su. Io manco l'avevo visto questo filmato, perché c'ho altro di cui occuparmi. Nel momento in cui ho ricevuto un atto in cui mi si chiede 100.000, poi gliel'ho fatto avere, lei, quando ha preso la notizia, che ne ha parlato in una radio, gliel'ho mandata, visto, sono citate il rap di Nova Pecora, non so che altro. Dopodiché io, avendo appunto riscontrato subito, sì, dopo, offese più gravi, veramente offese lesive della reputazione, l'avvocato mi ha detto assolutamente dobbiamo intervenire, quindi oggi è stata mandata questa lettera, hanno 5 giorni di tempo, poi eventualmente valuterò se farne beneficenza, certamente dovranno pagare, e molto. Vabbè, per cui ormai pubblicamente non parli più di Fedez, praticamente, perché ormai è tutto in mano agli avvocati. Vabbè, ho chiesto un risarcimento, dopodiché vediamo un po', mi pareranno 5 giorni di tempo, quindi spero che possano ottemperare. Senti, ti chiedo una cosa, però, al di là della questione Fedez, che ormai diciamo abbiamo capito, purtroppo, perché ci divertiamo un sacco con le battaglie via Twitter. Quando passiamo da questa cosa, io ho trovato degli elementi molto lesivi di reputazione, altro che battute e cose scherzose, quindi, ma poi c'è di più, perché poi in altre occasioni ma lui dice che tu l'hai accusato di averlo fomentato, ma questo discuterà, di essere un fomentatore di violenza. Quello che avete trasmesso è chiaro, poi ci sono anche altre cose che abbiamo contestato, sui follower hanno rivolto a me al suo tempo minacce gravissime, aizzati da polemiche che lui aveva alimentato, insomma, guarda, 500.000 credo che sia una valutazione generosa, io personalmente addirittura avevo valutato in 1.000.000 di euro l'entità del risarcimento, ripeto, questo mi pare anche un po' troppo, ma l'avvocato è stato generoso con Fedez, il mio avvocato, infatti lo volevo cambiare, però l'ho tenuto perché è un amico. Vabbè, ti voglio chiedere una cosa invece, che non c'entra niente, ma alla fine il derby si gioca lunedì, sì, e l'ha spuntata Lotito, con Lotito, grandi problemi. Ma Lotito c'ha gioie e dolori, perché lui ce l'aveva col Carpi e col Frosinone, e se l'è beccato in Serie A. Saluti al Frosinone, io sono senatore dell'Asia, sono contento, a differenza di Lotito. E dopodiché ha avuto un giorno di amarezza, perché mi dicono che a Frosinone non ho visto, c'era uno striscione. Sì, a voglia. Perché lui diceva irripetibile, che irripetibile. La Serie A non si può permettere squadre di città. Vabbè, aspetta un secondo, che torniamo su Lotito tra un attimo, dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Lassativo Parenzo, e alla defecazio non ci penso. La Zanzara. Vedi, Davide, quando tutto va a finire in tribunale, tu che vuoi portare tutto in tribunale, poi fine... anche Gasparri perde. No, perde, ma alla fine non ho parlato nessuno in tribunale. No, ironia. Erano tanto divertenti questi attacchi. Anche ma quando uno esagera, però io da questo punto di vista, adesso non è il merito della vicenda di Gasparri, ma lo capisco, però quando uno esagera. Ma no, scusa, d'accordo, ma... però lui, per esempio, che l'aveva definito, cioè Fedez l'aveva definito maiale, se n'era sbattuto, forse non se n'era manco accorto. Adesso Fedez che sta lì a vedere questi mi hanno fatto la campagna diffamatoria perché hanno detto in alcuni tweet che io sarei fomentatore delle violenze del primo maggio e basta. Però ma che in Occidente in funziona così, c'è il tribunale, sì, in altri ma posti lo capisco, c'è la mano ma non tagliata. È che t'hanno diffamato, ti hanno attaccato perché tu hai detto che una scritta, che scrivere sui muri, scrivere su una banca, scrive no sui muri no, lui dice, sostiene di aver fatto una differenza. Vabbè, che fare una scritta sull'insegna di un negozio è una cosa, fare una scritta sull'insegna, io non capisco questa differenza. È una sciocchezza sesquipedale. Lui dice tra l'altro di aver definito queste cose da delinquenti, ma io non ho né letta né sentita questa comunque se posso dire, è chiaro che nel momento in cui uno si mette su questo piano imparerà, quindi la mia è anche un'azione pedagogica, che le cose che lui ha detto gli costeranno economicamente molto care, e quindi fa il precisino, e allora siamo tutti precisi, e quindi è cioè chiaro, dici maiale non mi si può dire maiale, beh, insomma no, vabbè, il coso dipinto pure te gli hai detto coso dipinto, però benissimo, facciamo, io so, ho chiesto 500.000 euro, quindi ripeto, e lui 100. Uno sconto di 100 me ne darà 400 e faremo beneficenza, però a questo punto saremo molto molto rigidi, ma ho anche tutta la raccolta di persone, tutti i suoi follower, gli insulti, le minacce che hanno scritto. Lui vuole offrire assistenza legale anche a quella ragazza là con cui ha avuto quello scontro. Io ho parlato da suo tempo col padre, non c'era nulla di offensivo, comunque non è il patrocinante di nulla, e poi adesso sto anche controllando tutti quelli che hanno fatto minacce anche gravi, che sono suoi follower, chi è in contatto con lui, che tipo di rapporto, tanto sulla rete c'è tutto, non c'è bisogno dei servizi segreti, è tutto pubblico, no? Sulla rete internet, e quindi anche rapporti, situazioni, commenti, quindi credo che così sarà tutto in tribunale, tutto in tribunale, non c'è dubbio, tranne Lotito invece. Lotito, ma insomma, alla fine, ma perché la Roma protesta? Tu che sei tifoso romanista, super. Ma perché? Vabbè, perché se il gioco delle parti si è messo a piangere, dice Lotito, si è messo a piangere. No, no, ma lui, siccome c'era la Coppa Italia, è normale che lui abbia chiesto il rinvio, è normale che la Roma finga di indignarsi, ma lo sapevano tutti, insomma chi se ne frega alla fine, no? Alla fine. Io ieri eravamo allo stadio a vedere Roma Udinese e tutti sapevano che sarebbe stata decisa questa lunedì rinvio. Ma tu chi tifi mercoledì? Lo sai, questa è una bella domanda. Questa è una bellissima per la Coppa Italia. Per la Coppa Italia? No, ma non lo so, è una domanda imbarazzante. Lo so, vabbè, però avrei deciso. Mi corro il problema, devo decidere, deciderò. Insomma. Vabbè, dai, non puoi dire. La Lazio, che ne so, demorde dalla lotta per, no vabbè, non puoi essere troppo paraculo, dai. Lui è diviso tra il fatto che è eletto senatore in Lazio e dunque non può dire che tifa per la Juve, ma tifi per la Juve, dai, no, su. Ma la Juve c'ha tutti i tifosi dappertutto, comunque attenzione, allora sii sincero, di che tifi per la Juve, nessuno delle due, no, non tifo per nessuno delle due, sinceramente può darsi anche che vada la partita, ma non ti per nessuno delle due. Più che Fedez, Gasparri teme la Juve, questo è il punto. Più di Fedez, Gasparri teme le ira dei tifosi romanisti. Triplete, potrebbe essere che la Juve quest'anno, il Barcellona e la Juve e Barcellona, che tifi invece? Juve, devo dai. Fare per l'Italia, che devo fare? Devi tifare. Di la parola Juve, ce la puoi fare, no, non la Italia. La squadra italiana, devo fare la squadra italiana, poi adesso Juventus è una parola latina, quindi io stavo italiano, insomma. Ah, vabbè. Vabbè, ciao Maurizio, ciao. Allora, voglio sentire subito Patrizio da Roma. Dunque, Gasparri ha annunciato una querela di 500.000 euro a Fedez. Ragazzi, basta con queste querele. Avete rotto i coglioni. Cioè, nel senso, non è possibile andare in tribunale. Adesso non lo dico a Gasparri, l'ho già detto, è esagerato. Quello giustamente gli ha dato del maiale, l'altro lo vuole portare in tribunale. Però non è possibile che tutto, alla fine, tutto debba andare a finire in tribunale. Poi uno protesta, no? I tribunali sono troppo ingolfati, eccetera. Dai. Patrizio, dimmi. A proposito di animalismo, sì. Parlavo per il suo anti-animalismo. Sì. In realtà. No, io non sono contro gli animali, Io sono contro i difensori degli animali, che è una cosa un po' diversa. È un po' diverso anche quello che lei dice. In altri termini, una cosa è parlare dell'infrenabile bisogno che hanno alcuni esseri umani, sì, che peraltro l'hanno ereditato da antenati carnivori, di mangiare la carne. Una cosa è la violenza e la crudeltà contro gli animali, come accade nella caccia alla volpe. No, guardi, la caccia alla volpe non me la toccate, sono cose tradizionali, sono cose di grande tradizione. Poi mi risponde, sì. È che lei sembra nel suo discorso ignorare che alcuni animali hanno un ordinamento sociale estremamente superiore al nostro. Faccio il caso delle formiche o di altri animali, dei delfini. Cioè, le formiche e i delfini hanno un ordinamento sociale superiore al nostro. Sì. Ma io, certo, come cazzo perché... ti vengono in mente queste cose? Allora le rispondo. Dove le hai studiate? Dove le hai lette queste cose? Cosa farebbe lei che è un genio nel corpo di un pinguino, col suo brillante cervello? L'animale, nelle risorse che ha, non avendo il pollice opponente, non essendo su non quattro gambe, fa pure... Direi che lei, l'ordinamento sociale, se avesse il corpo di un pinguino, non sarebbe in grado di riprodurlo. Il problema è molto fisico, capisce, dottor Cruciani? Sì, sì, Patrizio, io non ho... per carità, non, sì, c'è, non c'è dubbio. Allora, lei sta dicendo che cosa? Che i pinguini, no, le formiche, no, le formiche non interessano. L'ordinamento sociale delle formiche è superiore a quello degli uomini, ma che può anche essere vero, che si organizzano, rubano benissimo. Sicuramente non rubano, sicuramente nella rubano. Loro politica. Cioè, le formiche non rubano. Cioè, io devo ascoltare a dimostrazione del fatto che gli animali sono uguali all'uomo, il fatto non che le formiche non rubano. No, no, le sto dicendo che gli animali sono uguali a Roma, agli uomini, le sto dicendo che c'è un'abissale differenza, che se lei col suo brillante cervello... Ma rubano perché sono animali, a parte che non alcuni animali non rubano, ma appunto perché sono animali. Che cosa vuol dire questo? No, divento pazzo. Siamo animali e per questo siamo legittimati a rubare, ma come ragione? Ma non siamo legittimati, tant'è che ci sono le leggi che lo sanzionano. Nel campo degli animali non c'è nessuna legge che sanziona, se non la legge magari della aggressione reciproca, cioè se tu rubi qualcosa te se magnano. Questo voglio dire. Il punto è, ma perché non bisogna... Perché si deve sostenere queste cose? Cioè, come si arriva a deve sostenere che il suo atteggiamento di superiorità verso l'animale o verso chi li difende è assolutamente risibile e non fa parte del sentire comune. Del sentire comune. Allora, aspetta, no, rimettiamo le cose in ordine. Scusa, le rimetto in ordine. Allora, Patrizio, lei mi sta non dicendo... distingue fra necessità di mangiare, che ripeto è derivato da razze animali che lei considera inferiori, e invece la crudeltà che può, di cui ho portato un esempio, è la caccia alla volpe. Ma capito, ma la crudeltà con cui vengono trattati gli animali è sanzionata dalle leggi ormai in tutto il mondo civilizzato. Patrizio, in tutto il mondo civilizzato esistono delle leggi pure eccessive in alcuni casi. Quando lei dice che va a mangiare i cani, ma io una volta sono andato, ma sono andato una volta in Corea a mangiare i cani. Ma ha fatto male. Ma com'era? Ho fatto male, ho fatto un servizio, ma non me ne frega niente, Patrizio, lo rifarei probabilmente. Però io voglio dire una cosa, Patrizio, qual è la storia del pinguino? Sì. Perché mi hanno scritto delle cose sui pinguini. No, no, le dico solo che se il suo brillante cervello fosse nel corpo di un pinguino, con le enormi limitazioni fisiche che questi animali hanno, non avrebbe potuto produrre nulla. Beh, non potrei nemmeno masturbarmi. Quando lei li considera inferiori e dice che non hanno cervello, non hanno sensibilità, non ragiona in termini di capacità fisiche. Avere quattro arti e il pollice opponente che consente di elaborare e creare manufatti ha permesso un'evoluzione che queste povere bestie non hanno. Però se lei studiasse un pochino, si interessasse, diciamo, lei sicuramente studia moltissimo ed è una persona di grande cultura, però di questo probabilmente difetta. No, ma che se certamente difetto sulle capacità, ma io dico che nel loro genere sicuramente i pinguini o altri animali sono meravigliosi, stupendi. Io direi nelle loro risorse. Nelle loro risorse, ma va bene, d'accordo, ma questo che... Ma che vuol dire questo? Ma che vuol dire? Se lei si interessa un po' di questo, si renderà conto che balene, pesci e altri animali sono enormemente intelligenti. Le dirò una cosa che forse dispiace a lei, ma il ratto, il comune ratto, ha il 99% di omologia con il nostro DNA. E allora? E quindi non dobbiamo disprezzare gli animali. Ma io non li disprezzo affatto, io non li disprezzo, li adoro, solo che non mi gli animalisti. No, è appunto, è diverso. Gli animalisti, non rispetta la sensibilità dell'animale. No, gli animalisti sono la cosa. Dopo la pubblicità rimandatemi Montanini, vi prego. Rimandatemi Montanini dopo la pubblicità. Voglio Montanini sugli animalisti, in loop. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Allora, Patrizio, Giorgio Montanini e gli animalisti, uno spettacolo, concordo al 100%. Sembrano come noi, gli animalisti. Li riconoscete a dicembre perché portano il loro cagnolino e gli mettono il cappottino d'inverno. E tu dici, che cazzo, perché ridicolizzi il tuo cane in questa maniera? Vaffanculo, non c'ha bisogno di questa cosa. Ah, perché non lo sai, il mio cane se no sente? Freddo! Io ho detto, scusa, come ha fatto la razza canina a cambiare decine di migliaia di anni senza di te? Scienziato, eh? sta animalari, perché mi piace, che sono quelli che anche sì, gli animalari, mi piace proprio perché hanno sta patologia. Verso Pasqua su Facebook iniziano a mettere foto degli agnellini. Sti rivoluzionari da tastiera. Basta con la Pasqua di sangue, basta ammazzare gli agnelli, e mette sta foto e sta agnellino cotonato bianco latte. Si vede che non hanno mai visto un agnello vero, perché l'agnello è sporco de merda, de terra, deve... non è come lo disegnate voi l'agnello. L'agnello fa schifo al cazzo se tu lo vedi in giro, è buono da magna, ma è brutto a vedesse. Non lo riconosci il gnagnello da una capra, non si riconosce, perché è sporco de merda come la madre, è uguale. Però lo mette tutto cotonato, dice, oh, ma però, basta! Mai messa una foto di un maiale a dicembre, però. Basta con la strage dei porci a Natale, Mai, perché? Perché lo maiale è più brutto, diciamo la verità. È una questione estetica. Traffico, veo chi là. La Zanzara. C'è la legge, non te lo permette. Quanti punterebbero una pistola alla tempia a un vegano e costringerlo a mangiare un agnello scottadito? Alzate la mano. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh. Con sta carne. I vegani possono pure aver ragione, come i testimoni di Geova. Può essere, c'ha ragione. Ma la boria, la carne mangi, assassino, vi mettete la pezzo di merda, boom, schiaffo. Sì. Però c'è la legge, non lo puoi fare. Altro Patrizio, leggo qua. Sì, eccomi. Leggo sui... Allora, prima di tutto, dove avete pescato questi due illetterati? Uno, vabbè, credo, ma è un comico. Un comico da strapazzo. Ma che comico? Fa ridere, dai, fa ridere. Teatri di periferia. Ma quale comico da strapazzo? Ma che... Il punto è un altro, dividere la crudeltà dalla necessità, che io non ho. Ma non è un comico da strapazzo, non dire stronzate, dai, su. Comunque, ma non è stronzare Egitto, è un comico di periferia. Non ma quale comico di periferia? Sentito. Ma quando non mai? Non credo che sia un personaggio da grande avanzo spettacolo. Comunque sia, non mi interessa. Non no, me ne scusami, niente. Patrizio, fermo un attimo. Comunque, allora, secondo notizie. Il punto è che aspetta. Una persona deve distinguere la crudeltà dalla necessità di mangiare. Vuol mangiare di maiale. Ma l'abbiamo già detto, capito? Ma no, nessuno vuole essere l'estremismo animalista e vegano che mi sta sulle palle. Allora, ma questo è un altro discorso. Allora fermo là. A proposito dei pinguini, leggo una notizia di qualche tempo fa. Necrofili e stupratori di gruppo, svelato il vero volto dei pinguini. Uno studio dei primi del Novecento, rimasto segreto finora, rivela le perversioni sessuali degli animali dell'Antartide. Innamorati, disposti al sacrificio e fedeli nell'immaginario collettivo, grazie anche ai film, i pinguini sono l'emblema della monogamia, ma una scioccante verità, rimasta segreta per un secolo, emerge ora da uno studio scientifico. I pinguini di Adélie fanno sesso fra maschi, a volte violentano le donne, capito Patrizio? Che l'animale in cattività possa fare sesso fra maschi è irrilevante, non mi interessa. A me interessa come viene ucciso. E come viene ucciso? Vabbè, alcune volte. Se viene ucciso crudelmente mi dà fastidio. Vabbè. Ciao Patrizio, ciao. Miro Roma, vai. Sì, buongiorno, buonasera. Cruciani, mi sente? Dimmi. Senta, io volevo intervenire su quello che ha detto Salvini sui centri sociali, in realtà in suo favore. Io non sono un elettore di destra, quello che dice Salvini non mi piace, capisco la rabbia sociale dei ragazzi di Carrara, di Massa, però quello che dice sui centri sociali mi dispiace, ma non ne sono un assiduo frequentatore, ma la mia esperienza è stata quasi devastante. Insomma, una volta un mio amico mi ha detto andiamo al centro sociale a sentire questo gruppo, i 99 posse. Noi andiamo, le dico che guardi, il concerto praticamente non l'ho visto. In che quello senso? Che succede visto, lì sì. è una cosa, insomma, l'ambiente è veramente, a parte le ragazze, come guardi, davvero non so, nessuno è lucido in quei posti, non, è una cosa. Ma è roba vecchia, dai, ma anni fa succedeva questo, esiste ma ancora in qualche... Ma come si permette? Questa è la mia esperienza, mi è successo, è stato terribile. Terribile. Mi hanno offerto davvero una cosa, non mi sono sentito più bene, vabbè. Non ho capito niente, non c'ho nemmeno ricordi di quella serata, effettivamente è un ambiente terribile. Io non sono d'accordo con niente di quello che dice Salvini, ma è vero, i centri sociali sono un posto terribile. Sì, però Salvini mi segna delle cose, ma quando mai? Ma veramente incredibili. Adesso ci stai pigliando per il culo adesso, Salvini. Ma come pigliando per il culo? Ma veramente di una cosa del genere? Oh. Nel 94, Salvini, a proposito. Ma questa è la mia esperienza. La tua esperienza l'abbiamo registrata, eccetera. Ti sei sentito male, non so che ti hanno messo la polverina nella birra. Che io non lo so quello che mi hanno messo, non lo voglio dire, non lo so quello che mi hanno messo, ma potrebbe essere successo. Ti sarai fumato qualche canna? No, io non ho mai toccato una canna. Ti sarà arrivato il fumo addosso? Ti sarà arrivato il fumo addosso? Ma quale fumo addosso? Le dico, mi hanno offerto qualche cosa da bere, io non so che cosa c'era dentro. Questo ma può succedere pure a una festa di Pariolini o una festa della Milano Bene, non ti preoccupare. Io non ci vado alle feste di Pariolini della Milano Bene. Vabbè, ovunque può succedere, dai, non è questo il punto. Vabbè, Miro, il punto fondamentale è che io sono d'accordo su una cosa: se uno occupa solo pubblico, paga. Le cose gratis, basta, abbiamo già dato. Salvini comunque su Leoncavallo, sulla sua frequentazione del Leoncavallo, dovrebbe chiarirsi un po' di più, forse, o comunque dovrebbe correggere una sua intervista del passato, quando nel 94 disse: io il centro sociale Leonca l'ho frequentato dai 17-19 anni e conosco quei ragazzi, facevo il liceo e tutti i miei amici andavano lì, era un posto ottimo per passare la serata a chiacchierare, bere una birra, ascoltare musica, vedere uno spettacolo teatrale, stavo bene, mi ritrovo in quelle idee, in quei bisogni, eccetera. Lui stasera da noi ha detto: bah, ci sono andato solamente a vedere un concerto. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Francesco da Roma, 800 24 00 24. Vai, Francesco. Ciao Bruciani. Dimmi. Quanti anni hai? 26. Ottimo. Cioè, ma Miro, ma quello, ma in quale parrocchia vive? Cioè, i centri sociali a Roma sono posti normalissimi che fanno un sacco di attività culturali, con la musica, a prezzi bassissimi. Comunque non volevo dire questo. Volevo intervenire perché il 10 maggio c'è stata a Roma e molte città del mondo la Million Marijuana March. Sì. Che vabbè, la marcia per la legalizzazione e liberalizzazione della cannabis. Tu ti fai le canne? Ma ogni tanto. Non fare il. Non mentire. Fumi marijuana abitualmente? Sì. A quanti anni? 24, 26 che hai detto prima? 26 anni. A 26, sì. Da quanti anni? Ma che vuol dire abitualmente? Ogni tanto, una al giorno, così una per rilassare. Una al giorno è tantino, eh. Una al giorno. Io non dico giusto o sbagliato, una al giorno. Io dico un po' tantino, ma insomma va bene, ognuno fa quel che gli pare. E allora, Francesco, stai dicendo? E allora no, che se uno guarda le immagini, non so, della manifestazione di New York, di Parigi, di Londra. Sì. Ci stanno le famiglie, cioè ci sta un movimento che prende proprio tutti, mentre se uno va a Roma becca i 14enni, 16enni che hanno fatto sega a scuola e che si sballano con le droghe pesanti. Vabbè, perché in Italia c'è l'ipocrisia che anche se uno si fuma canna, se un adulto si fuma la canna non lo va a dire in piazza perché magari viene additato socialmente come quello che si fa le canne, è ridicolo. Esatto, quindi tutta questa campagna che c'è ora, no? Pure con i civati che si è fatto, mi sembra proprio ridicola. Cioè, ma invece perché è ridicola? Magari ci fossero... Solo una cosa per prendere voti, una cosa per smuovere leggermente le acque, cioè campagne per la legalizzazione sono differenti. Ma i tuoi genitori lo sanno che ti fai le canne? Sì. Se le fanno pure loro, no? No, assolutamente, contrarissimi proprio. E però. Dove te la compri la roba, cioè la marijuana, eccetera? Dove te la compri? La Crucia, Madonna. Per strada, che ne so, dimmi. Per strada, cioè per... Sì, per strada, cioè in... Cioè amici, cose, dove... Amici, sì, tra università, anche i centri sociali ogni tanto ci sta... La ganja si chiama in gergo, no? La ganja. Ma che è la ganja, ma questa è antica, è come la chiave, amico mio, in gergo. Ma ancora, l'erba. Ma chi te l'ha detta queste cose, Parenzo? Dai, non buono, ho capito, sei di un'antichità spaventosa. Ma all'epoca mia si diceva la ganja. Appunto, all'epoca tua, cioè... Ma quanti anni c'hai, Parenzo? Io ne ho 39. Appunto, l'epoca tua, so 10 anni fa. Sì, ma sembra che ce l'ha 50, capito? Che cazzo? Ma lui se le faceva quando aveva 16 anni, per cui sono 20 anni fa, cioè più di 20 anni fa. Cioè se le fa ancora ogni tanto qualche cannettina. Vabbè, sì, tra i radical chic gira troppo un po' di fumello. Gira, scusami, fumello? Il fumello. Ma tu che fai nella vita, Francesco? Che fai? Ecco, però grazie della domanda, perché io cioè, grazie, in realtà prego, ho chiamato per invitare i miei amici alla mia laurea, che è lunedì prossimo. Io studio architettura. Chi se ne frega, però. Architettura, perché no? Giusto, per invitare i tuoi amici alla laurea. Perché no, ma uno giusto chiama dalla radio. Vabbè, adesso è vero che mi sembra un po' esagerato chiamare alla Zanzara la sera alle 20:24. Allora, io oggi faccio gli auguri a Garamone. Vabbè, no, volevo invitare tutti, proprio pure voi. Cioè, vabbè, adesso non esageriamo. Francesco, fate una canna stasera, stai tranquillo, riposati. No, possiamo anche venire noi. Ma non ci vengono, io non ho tempo da perdere, con tutto il rispetto. C'era cioè, Francesco. Ma no, vai, ma è un ascoltatore che va, per carità, tenuto in palmo di mano, però non ho tempo di venire alla tua laurea, ci verrei volentieri, ma non che ho tempo. Devi fare, scusa. Ti abbraccio fortissimo, viva la marijuana legalizzata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, figa, per favore, a noi non frega il caso di niente. Aspetta, aspetta. Fermi tutti, fermi. Pronto? Professor Leonetti? Sì. Buonasera, Cruciani, Radio 24, la disturbo? Pronto? Sì, sono in una riunione. Sì, sto oh, a cena. No, volevo capire com'è. Riunione a cena. Riunione a cena. Che è successo con Giletti l'altro giorno? Mi spiega? Niente. No, come no, niente. Le telecamere, lei la butta. No. Le ha scansate praticamente. Come mai? Scusi, stia bene. No, scusi, Leonetti. Stiamo benissimo. Magari è incredibile, guarda. Amico mio, prima o poi ti pizzico, Leonetti. Prima o poi ti pizzico. Lasciativo penso e alla defecazio non ci penso. Allora, Alessandro da Milano, vai. Sentite, io sto vivendo un grande travaglio interiore. Sì, però non ti mettere in viva voce, se no non capiamo niente, vai. Ah, no, vi dicevo, un travaglio interiore. Siete molto divertenti. Io sto lavorando, vi ascolto spesso quando lavoro, tutte le sere. Però questa sera, dopo aver sentito la galleria degli orrori da Gasparri, che cita lo Tito, e stavo anche considerando che io oggi ho tentato di generare un po' di PIL nel mio piccolo pezzettino, un po' di PIL di questo paese. E vabbè, ma sei molto, come dire, da questo punto di vista hai un'alta considerazione di te stesso, no? No, assolutamente, tento di dare un mio piccolo contributo. Ho capito, ognuno di noi dà un contributo lavorando, facendo la sua attività, qualsiasi attività sia, no? Assolutamente, proprio dunque, quello che dici, lì volevo arrivare. Perché Gasparri e a gente del circo come lui non chiedete, alla fine salutandoli, tu oggi in cosa hai contribuito? Sì, però amico mio, allora il punto, già noi abbiamo una marea di nemici e nessuno lo sa in questo mondo, giustamente, e ne sono anche orgoglioso, non è che ognuna delle persone, altrimenti cominciamo a fare una trasmissione con nessun ospite, zero ospiti, il che potrebbe anche essere divertente, potrebbe essere un'idea, cioè mandiamo a fare in culo tutti regolarmente, tutti dal primo all'ultimo, ma tutti, tutti, lei oggi... Ma no, non è vero, siccome Gaspari lo paghiamo noi, guardi, io non ho mai votato 5 Stelle, non voto Salvini. Ma tutti li paghiamo, tutti. No, ma sai, lo Tito non lo pago io, no? Lo Tito che mi sembra sia un presidente di una squadra calcistica della Lazio, sì. Ecco, non lo pago io, è un imprenditore, quindi in qualche modo è sua responsabilità. Gasparri, al contrario, vive del tuo pezzo di IRPEF, del mio pezzo di IRPEF. Sì. Ecco, allora, ma niente, quindi benissimo Gasparri, benissimo tutto il circo che veramente è una bellissima rappresentazione dell'Italia la vostra, mi piace tantissimo per quello e continuerò a seguirvi, però se alla fine magari a qualcuno chiedete tu oggi in che cosa hai contribuito a parte sì però la risposta sarebbe pronta, cioè ci sarebbe sempre una risposta per queste cose, perché ti direbbero guarda amico mio, oggi ho presentato questo disegno di legge, sono andato a fare il comizio in Puglia per la campagna elettorale, anche questa è politica, e uno che come risponde così, cioè come risponde quando io ci sono che Gasparri oggi abbia mandato messaggi, si è occupato del suo avvocato, di quello di Fede. Vabbè, d'accordo. E penso che no, così cioè coglierli un po' però, in castagna però, ogni tanto. Scusami, però a parte che noi lo facciamo regolarmente, il signore che prima non ha voluto rispondere dicendo sto nella riunione, sto a cena, eccetera, è un signore il quale ha fatto quattro mesi al Consiglio regionale del Lazio, quattro mesi, è stato presente poche volte e nonostante tutto incassa un vitalizio di 3.000 euro al mese, decurtato, ma lui protesta per la decurtazione. Certo. Questo è il punto. Allora, qui davvero siamo in presenza, magari non sarà colpa sua, sono le leggi che l'hanno deciso, però questo è lo scandalo, questa è la vergogna, fermi tutti che c'è la borsa. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, pubblicità. La Zanzara. No! Cioè, allora ti spiego. Allora, Stefano da Roma, Stefano, vai, Stefano. Eccomi qui. Torniamo a Gasparri. Anni fa suonavo in un gruppo, gli Acciari Brothers, che facevano country americano. Eravamo stati chiamati apposta perché pensava probabilmente che il country americano fosse di destra. Sbagliato. Woody Guthrie, Pete Seeger, vabbè, ma lasciamo perdere. Erano iscritti al Partito Comunista Americano, perché c'era pure il Partito Comunista Americano. Ci facciamo tutto a piedi perché quel giorno dovevamo suonare sulla terrazza, quel giorno l'ascensore non funzionava. Arriviamo su, suoniamo, chiediamo la modica somma di 500 euro. La situazione era l'inaugurazione di un sito e non veniamo mai pagati. Poi una curiosità, che ci stanno a fare in quel palazzo? Enormi quadri che rappresentano la rivoluzione culturale e la rivoluzione d'ottobre. Cioè non ho capito, spiegami. Ci sono enormi quadri, ma enormi, giganteschi. Le classiche immagini di quelli col libretto rosso, di Lenin che arringa la folla nel 17, che fanno? Ci fanno le risate, le barzellette? A Palazzo Grazioli, che c'è stata qua roba? E che ci stanno comunque aspetto ancora 500 euro io. Cioè, non ho capito, capito il senso. No, lui ha cantato, dice, è stato chiamato. Sono stati pagati, tutto qui. Ma da chi? Da questo sito che era stato inaugurato, siamo stati chiamati per l'inaugurazione del sito ma con chi ti hai rimesso d'accordo? Con chi ti hai rimesso d'accordo? Era stata organizzata dal signor Gasparri che era presente alla, ma con chi ti hai rimesso d'accordo? All'inaugurazione, al catering eccetera eccetera, e non siamo stati mai pagati, non sono 500.000, sono 500, ma 70.000 tanto. Ma con chi ti sei con chi ti hai rimesso d'accordo? Tutto qui. Ma con chi ti hai rimesso d'accordo per questo pagamento? Con chi ti hai rimesso d'accordo per questo pagamento? Col capo del gruppo, che si chiama Augusto Acciari. No, vabbè, ma chi ti doveva dare questi soldi, Gasparri? No. Era questa associazione che stava inaugurando il sito di Forza Italia, perché allora si parlava ancora di Forza Italia. Ho capito. Poi i contatti l'ha tenuto il capo del gruppo. Ha tentato di farsi pagare, non c'è stato niente. Vabbè, e gli avvocati? Ma quali avvocati? Ma che ce ne frega degli avvocati? Ce ne siamo tornati giù, siamo scesi a riporta senza ascensore, quindi amplificatori, strumenti, tutto quanto. E se gli abbiamo dato il pezzo di merda, denunci pure me. Vabbè, Stefano. Che ce posso fa? Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ciao. Guardando, ho capito che cosa. Andrea, lo sai, io quando ero piccola al paese come mi chiamava? Pensa un po', culetto d'oro. Sì, allora là in Africa avevi lo zio che ci dava, Beh sì, vabbè, c'hai un bel culetto, però non ti montare la testa, Sul palco di Forza Italia in Puglia, dov'era Berlusconi? A Lecce, dov'era? A Lecce. Indovina chi c'era, Parenzo, l'ha riconosciuta? Non l'hai riconosciuta. Ma come no, io ho visto anche, lo chiamavano Bulldozer. Ciao, come stai? Eccomi. Come andiamo? Come andiamo? Francesca Antonacci, ma tutti la ricordano come Gegia, vabbè, insomma, protagonista di un sacco di robe negli anni 80, pure 90, pure adesso. Ma che fai adesso? Adesso, dai, ma insomma, voglio dire tutti, ma te la ricordi, io sono morta. No, certi infatti, ragazzi bellissimi tipo voi, no? Senti, giovani, ma quando 40 anni. Ma prima dicono, io sono cresciuta, io ero piccolo e mi ricordo che mi è mai cresciuta. Ma scusa un attimo, ma non stavi con uno con una specie di toy boy una volta? Una volta? Se cambia nella vita, no? Io pure menato. Come gli hai menato? Voglio dire, era diventato pure un po' pesante. Gli hai menato, no, perché è stata una cosettina così. Ve menavate tra di voi, no? No. Tu gli hai menato. È stata una cosetta molto così che lui, insomma, uno sciocchezzuola. Io amo moltissimo i 50, 60, 70 anni. Li adoro, guarda, ve la giuro. Sì, ma è diverso da 50, 60, 70, scusa. È stata una cosetta così giusto per provare un toy boy. Un déjà vu. Ma no, non c'era niente. Non c'era niente. Infatti poi lui invece si era impeciato, ma per altri motivi, non certo d'amore, come diceva lui. Sì. Ecco, c'era a seguirmi a fare, finché alla fine io ho tirato due sberle, quattro calci ho mandato via. Cosa che dovrebbero fare tutte le donne con tutti gli uomini di tutte le età. Perché? Come? Perché sì, perché voi andate per essi così, insomma. Cioè, noi ogni tanto andiamo picchiati, dici? Sì, mi devi scusare un secondo perché c'ho il signor autista, perché io sto venendo, pensa, da Ago Chanel, sto venendo dalla... Ma che sei pure da... come si chiama? Dall'Albania. Da che stai andata a fare pure da Ago Chanel? Pure là sei andata, hai beccato i sordi pure là. Ma la cosa è incredibile. Sì, sono andata là perché stanno facendo un programma, ma hanno fatto un programma bellissimo che verrà onda domani. Solo per beccare i sordi. Praticamente hanno fatto vedere certi reperti storici miei del 15-18, fatto insomma un'intervista, insomma, uno spettacolo, un programma molto carino, molto divertente. Dove? A Durazzo? Dove? No, a Tirana, che Durazzo? A Tirana, in questo nuovo, devo dire, grande professionalità, veramente mi sono trovata bene, una volta mi sono stata alle 6, sono andata e tornata. Perché si sta sbagliando il signor autista, cosa non si fa per guadagnare durire, dici te, Giaggia, no? No, sono andata gratis, penso. Come gratis? Che sei matta? Sì. Mai andare gratis per niente. Quando una cosa mi piace, grazie a Dio, non ho... Posso, insomma, non ho figli, non ho famiglia. Vabbè, io dico, che sei andata a fare? Certo, che sei andata a fare da Berlusconi là sul palco, scusa? Allora, secondo me questo è un discorso un po' delicato. Se non vi dispiace, io mi faccio portare a casa. Scendi un attimo, tra due minuti ti richiamo. Scendi dal taxi, ecco, tranquillo. Perché sto con la valigia, il signore che mi giustamente deve andarsene. Sì, e devi anche pagare. Apro la porta, entro. Ma chi paga il taxi? Ago Chanel, è chiaro? Ago Chanel, Ago in albanese. Ma io parlo così. Ma come fai bene, parla come devi parlare. Ma chi? 56 anni a luglio. Ma come, ragazzi, chi te li dai i soldi dopo? Anticipi tu però? O t'hanno dati loro? Ma no, no, buono. No, io non ho anticipato niente, non ho cacciato niente. Per carità. Loro, mi hanno trattato come una principessa. Allora, scendi un attimo dal taxi, signora Gegia, e poi quando stai tranquilla, tra 5 minuti ti richiamo e mi spieghi cosa cazzo ci facevi sul palco con Berlusconi e soprattutto cosa pensi di Fitto, di Berlusconi, di Renzi. Fermi tutti. Allora, andiamo a Padova da Michele, vai. Eccomi qua. Dimmi. Ciao. Senti un po', io quello che volevo dire è semplicemente questo. Che volevi dire? Riguardo al discorso degli animalisti. Sì. Che l'essere umano è nato per disobbedire. Tutto qui. È molto semplice. L'essere umano è nato per disobbedire, dunque? Sì, quindi Casarini aveva ragione, detto da Padova, diciamo. No, ma non ho capito cosa vuol dire con la differenza tra gli animali e gli uomini. Non ho perché capito. Gli animali non possono, perché non hanno il libero arbitrio, tutto qui. È molto semplice il discorso, è che nessuno lo dice. Vabbè, sì, che non abbiano libero arbitrio, lo sappiamo, e dunque? Appunto, e quindi l'essere umano disobbedisce. E l'essere umano per fortuna disobbedisce, certo, per fortuna commette degli errori. L'autorità. Sì, vabbè, non solo, solo per sfidare l'autorità, anche per quello. Sì, e dunque? Per prendersi cura dei sofferenti. Dunque, diciamo, anche gli animali potrebbero prendersi cura dei loro simili sofferenti. La differenza è che l'uomo... Io insomma, non sono animalista, nel senso... però? Io mangio la carne, eccetera, eccetera, la penso esattamente come te, probabilmente. Però ci vogliono i giusti modi e i giusti. Considerare un pochino tutto quanto. Va bene, Michele, ciao. Dai. Fabrizio da Roma, dai, Fabrizio. non ho capito. Fabrizio, dimmi. Ecco. Senti, cosa non si fa per l'ascolto? Allora, due secondi soli. Nei tempi passati tutti a dare addosso a Parenzo. Ultimamente danno addosso a te. Bah, veramente non mi risulta. Comunque, vabbè. Dipende dalle cose che si dicono. Però, mentre Parenzo, tutto sommato, un po' di intelligenza gli è rimasta e si fa riciclare in atto delle trasmissioni politiche, a te è tolto Radio 24... Vai a fare il giudice dei DJ di Radio Dimensione Suono. Non mi sembra che tu ti stia proponendo per un futuro. Quindi ma qual è il tuo problema? Non ho capito. Hai un problema di lavoro? Hai un problema di relazioni sociali? Hai un problema di ruolo nella vita? Che devi cercare che tipo di ruolo debba avere io nella vita? Non ho capito. Sono perfettamente d'accordo con quel ragazzo che tu dicevi che era un comico, ma diceva delle grandi verità su cui tu dovresti riflettere. Guarda, se ti faccio risentire, ma io non ho capito che cosa che mi rimproveri, tra l'altro. Non ho ben capito, scusami. Il tuo stile è veramente basso e greve. Benissimo, se non ti piace cambia e non mi lo... quello è chiaro, quello è chiaro. Allora, ma che a fartelo sapere. Ma cosa? Ma ci tenevi cosa? Ma a fare sapere cosa? Non hai capito? Non si capisce che cosa. Prendi esempio da Parenzo che fa il finto tonto, ma. Ma l'esempio in che cosa? Non ho capito da chi dovrei prendere esempio. Invece non ti sei muovere, tanto che sei finito a fare il DGR di Dimensione. Ma di che stai parlando? Ma non sai di cosa parli. Quando uno non sa di cosa parla, è la cosa grave. Tu non sai di cosa. Tu non sai di cosa parli. Tirare la cacca addosso e siete contenti. Tu non sai di cosa stai parlando. Quando uno non sa di cosa parla, è grave, cioè è molto grave. Cristian da Roma, dai, Cristian. Sì, ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Senti, io sono la ricerca per fare un salto di qualità. Cioè tu devi mandare a casa Parenzo uno e devi togliere il traffico dalla trasmissione. Traffico, il traffico sarebbe da eliminare sempre comunque. Eliminare, abolire, cioè un'arena lì la trasmissione, non puoi interromperla per mandare il traffico. Cioè nel momento più bello, nel momento blu, tu te ne esci col traffico. Ma a me lo dici, poi... ma io bombarderei tutto, ma a me lo dici, cioè non... sfondi la porta aperta con me. Su Parenzo non sono d'accordo, però è diverso. Ma poi lì sotto c'è Parenzo, mettigli a fare il traffico, mettici lui invece di quella bella signorina. Ma io il traffico e la borsa lo farei volentieri, però anche. Ma tu faresti qualsiasi cosa. Ciao, no, ciao, qualsiasi. Ciao Cristian, ciao. Ciao. Non mi offendo il traffico. Ti sei messa comoda? Io sì, comodissimo, anche perché io vivo con una mia carissima amica che è una ragazza bellissima, eccezionale, e che è de sinistra, atea, e andiamo d'accordissimo. Io sono tutto il contrario. Ma che vuol dire de sinistra atea? Non ho capito. Cioè una senza Dio, dici, una senza Dio. No, per il fatto che io sono salita sul palco per Berlusconi, ma per la signora, per l'onorevole Adriana Poli Borsone. Ma a te ti piace Berlusconi o no? Sì, ti fa... Moltissimo, sì, mi piace molto. Ma non t'hanno pagato? Mi è sempre piaciuto tantissimo. Ma è finito ormai, Gege, è finito Berlusconi. Ma che vuol dire? È una persona perché è finita, tu abbandoni. Uno che ha fatto tutti diventare i più cretini, i ministri, gli ammiracolati e tutto quanto, e che fa? Ma perché è umanità cristiana questa? Ma perché? Se parte che non è finito, perché se tu vedevi la piazza de Lecce era strapiena di gente. Sì, vabbè, e poi una persona... Io non ho mai abbandonato le persone in difficoltà. Non comincerò certo adesso. Cioè tu dici un uomo in difficoltà. Certo, è una persona che ha dato moltissimo, tutti gli andavano appresso, parlo di quando c'era PD. Cioè, ha fatto diventare ministri anche degli imbecilli, dici tu, no? Assolutamente sì. Ha miracolato tutti. Importante sapere. Poi dopo sono andato in disgrazia e tutti adesso a canna se ne vanno. Io questo non l'ho mai fatto, no, con lui, con nessuno. Io non abbandono nessuno, né destra, né sinistra, né centro, nessuno. Vabbè, nessuno. Quello è un uomo. Ricordati che quello è un uomo che io, quando ho iniziato la mia carriera a 20 anni, che venivo dal sud ed ero una ragazzetta piccola, e io ho dato due volte la mano al signor Presidente Berlusconi. La prima volta quando ho fatto Grand Hotel, tutto lui finito, è venuto e ha salutato il grande sabato sera nell'85, tutto finito, lo sai, di Canale 5, ci vedeva la diretta televisiva, io facevo parte di un enorme cast stellare, lui venne e diede la mano a tutti, augurando un po' in bocca al lupo. Allora? E la seconda volta, dopo 30 anni, a Lecce. L'altro giorno, l'altra sera. Ma ti sei pensa quanto. Però io ho aiutato moltissimo i suoi uomini, che sono amici miei. sono sempre stata dietro a questi uomini. L'ho ma l'hai definito un Superman, Berlusconi? Un Superman l'hai definito? Sì, secondo me sì. Secondo perché te... un uomo che non si abbatte mai, che ricomincia sempre anche alla sua bella età, che non si dà mai per vita. Ma un non uomo parli con più i ma no, non parli, con i coglioni, un uomo con i coglioni, ma non parli più pugliese tu, Gege? Se vuoi sì, se vuoi ti posso parlare pugliese. Ma com'è posso che parlare così, ti posso parlare pur baresse poi, non c'è problema. No, ma pugliese è mio, leccese è questo, eh. Leccese è questo, dice non è come quello verace, il pugliese verace di altre zone. Ma t'hanno pagato almeno per andare sul palco? Esatto. No, neanche là. T'hanno... No, che mi hanno pagato? No, io sono andata innanzitutto per la Adriana Porli Bortone, che è stata sindaco di Lecce per tanti anni e poi amica mia da 20 anni. Ma vuoi fare politica tu o no, Gegia? Non ho capito. Vuoi fare politica o no? Onorevole Gegia. No, ma vuoi entrare in Parlamento? L'onorevole Geggia. No, che voglio entrare in Parlamento? No, per carità, io non sopporterei di stare ore a sentire, fa, no. No, per io carità. La vita me la godo, ogni giorno è bellissimo, è regalato, e che diverto. Pensi del signor Fitto, il professor Fitto? Che pensi? Allora, dimmi. Io quello che penso è che è stato veramente veramente poco intelligente. Io non so i problemi loro. Hai detto che va faltronista. Ha detto che va faltronista, probabilmente. Vabbè, è carino, no? Cioè? È molto bellino lui, è sempre stato molto bellino. E dunque? Ed è giusto che vada. Cioè, se va faltronista, trova un sacco di corteggiatrici. Certo, non più quelli di 20 anni, va a quello del reparto degli anziani. Non insomma. È come una cosa carina questa qua. Cioè. Come non è carina? È una cosa carina. Vabbè, ma dai, su. Cioè, dire, non è simpatico, però. Ma il loro mio è poco intelligente. Tu spezzi un partito sapendo già che non vincerai e fai vincere comunque la sinistra, al che va bene, perché Emiliano è una persona da sentire. I Baresi comunque si è sempre comportato bene. Io senti, Gegia, ma nessuno. La Pascale c'era l'altro però, giorno. Scusami, ma sei un idiota. Cioè, idiota pure, al limite, sì. Lasciate dopo. Fitto. No, con Berlusconi, sì. Con Forza Italia, ma almeno voglio dire, almeno insieme forse vincete. Tu per spacchi con non vinci tu, non vince nessuno, vince quella. Sarà un poco intelligente, no? Senti, Gegia, ma tu hai fatto qualche pazzia quando eri più giovane, qualche follia, droghe, cose pazzesche, sì. No, droghe no, perché trovo che costano troppo e il denaro è fonte di ogni male, ed è meraviglioso. No, io diciamo che qualche canna te la sei fatta o no? No, una volta, quando ero giovane, 18 anni. Ma manco le canne. No, facevo una canna, l'amica mi sai, al liceo, no? Io talmente mia madre mi aveva detto attenta che stai male, io poi sono una immaginazione fervidissima, che mi sono vista cadere addosso, stavo a Piazza del Popolo. Talmente lì, ho fatto una tirata e mi sono vista cadere addosso alla chiesa di Piazza del Popolo. Sono molto impressionabile. No, più che altro diciamo che quando mi voglio fare, mi embriaco di aperitivi, ma mo' c'ho la glicemia a 420 e me l'hanno levato. Ciao cara, ciao. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Vorrei sapere chi sono quegli uomini che vanno a letto con Vladimir Cussure. Non so, con quel cazzo di coraggio si può andare a letto con Vladimir Cussure. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vorrei sapere anche come fa Maurizio Costanzo del Ripaveri Rapporti, vorrei saperlo. Radio 24, la passione si sente.